Cari amiche, cari amici, bentrovati. Questa volta in una cornice leggermente diversa. Siamo alla Fiera del Libro, che inizia proprio oggi, il 1° marzo, e il primo stand che visitiamo questa sera è quello della casa editrice Neo, del nostro amico Gerard Adam, che è stato più volte nostro ospite e che tanto ci ha fatto conoscere di cultura, ovviamente, non solo belga. Gerard, che più puoi nous raconter alors sur cette foire? Quelles sont les aspettative? Écoute, la foire du livre de Bruxelles, c'est la grand-messe du livre, comme on dit. Donc la présence d'un éditeur belge s'impose à la foire du livre. Maintenant, il faut savoir que dans l'état actuel de l'édition, la cannibalisation de l'ensemble de l'édition par les grosses maisons commerciales parisiennes fait qu'on est là comme faire valoir des grosses maisons parisiennes. Donc en fait, nous payons très cher un stand que nous ne rentabilisons pas. Mais par ailleurs, il faut y être aussi pour nos auteurs qui se doivent d'avoir été à la Foire du Livre. Et je n'imagine pas que je pourrais ne pas être ici aujourd'hui, même si c'est financièrement très dur pour nous. Quels sont les auteurs ou des nouveaux auteurs que tu vas présenter ici à la Foire? Alors ici à la Foire, nous n'aurons que les auteurs belges, puisque tu sais que nous avons une jambe dans l'édition francophone et une jambe dans la traduction en français d'auteurs de l'ex-Yougoslavie, du champ ex-serbo-croate. Donc nous allons avoir ici le poète croate, mais maintenant devenu belge, Tomislav Dretar, qui sera là demain, que vous connaissez déjà. Nous allons avoir Monique Tomasetti, qui viendra dimanche. Nous allons avoir Daniel Simon, qui sera là plusieurs soirs de la semaine. Françoise Pirard, qui est déjà passée chez vous aussi, qui sera là dans je ne sais plus quel jour, Françoise, je pense samedi. Nous allons avoir Rosila Frédéric, qui est notre petit nouveau, le roman qui est paru aujourd'hui, qui s'appelle Ciel serein, qui est un polar qui a lieu dans l'usine sidérurgique ArcelorMittal et qui a l'extraordinaire pouvoir d'avoir anticipé, le livre est écrit depuis un certain temps, forcément, d'avoir anticipé tous les derniers développements de la reprise et de la quasi-disparition d'ArcelorMittal à Serein. C'est un polar assez étonnant parce qu'il fait intervenir des personnages de manga, pratiquement, des ninjas venus du Japon pour semer la zizanie dans ArcelorMittal. Pour une histoire de vengeance, parce que ce ne sont pas les Japonais qui les ont repris, mais les Indiens. Ce livre, qui est un premier roman, paraît aujourd'hui, Ciel serein, A-I-N-G bien sûr, de Bozidar Frédéric. Et Bozidar sera là demain en fin d'après-midi, samedi et dimanche, dans le courant de l'après-midi également. Moi-même, je suis là en permanence bien sûr, puisque je tiens à la maison d'édition. Qui aurais-je oublié? Marie Nyon-Pézet, donc qui sera là demain vendredi, samedi et dimanche de 14 à 18 heures pour signer son récit autobiographique Retour à Muganza, récit d'un avant-génocide. Donc c'est un récit autobiographique sur le génocide rwandais, mais surtout sur le pré-génocide rwandais qui a eu lieu 4 ans auparavant et dont elle a failli être une des premières victimes puisqu'elle a passé 6 mois en prison, qu'elle y a accouché d'un bébé qui est mort après la sortie de prison, que son frère a été assassiné en prison et après, quand elle a pu obtenir l'asile politique en Belgique, laissant malheureusement au Rwanda un enfant avant d'obtenir son droit d'asile, l'enfant a été tué pendant le génocide en même temps que tout le reste de sa famille. Toute cette histoire forme le récit de Marie Nyon-Pézet, Retour à Muganza. Et donc c'est un livre extraordinaire de sobriété, d'une auteure qui parvient à traverser cela et à se reconstruire malgré tout. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'humainement extraordinaire. Alors j'ai une question, j'ai lu à plusieurs niveaux et à plusieurs fois que le livre va disparaître. C'est vrai? Non, c'est certainement pas vrai. Le livre ne va jamais disparaître. Bon, le livre, à côté du livre, vont apparaître d'autres formes de lecture, la tablette, etc., pour prendre une part de marché croissante. Le livre existera toujours. Le problème que nous avons, peut-être particulièrement en francophonie, c'est la mainmise du côté book business, donc du commerce du livre, qui étouffe le livre d'auteur, de la même façon que le cinéma commercial étouffe le cinéma d'auteur en francophonie. Ça, c'est un... Mais bon, c'est pour ça que toutes les maisons d'édition comme la nôtre existent, qui permettent l'émergence ou la survie d'auteurs qui ne trouveraient pas leur place dans la grande édition, entre guillemets grande, enfin, dans l'édition commerciale volumineuse, dirais-je. Et c'est pour ça que je suis fier de faire ce métier d'éditeur. Un message pour nos amis lecteurs? Un message très clair. Quand ils vont à la foire du livre, qu'ils ne se contentent pas de mettre dans la file, qui attend pendant 2 heures de voir les auteurs à chapeau buse, mais qu'ils tournent la tête à gauche et à droite, et ils y découvriront des éditeurs extraordinaires, des auteurs extraordinaires, très peu médiatisés, mais de grande valeur, qu'ils fassent l'effort de la découverte, la découverte, la découverte, il n'y a que ça en littérature. C'est un très beau message, avec ça on remercie à nouveau Gérard, et on l'aura bientôt à nouveau à Radio Alma avec, je pense, Frédéric Godidard. Donc, avec plaisir. Ed eccoci nuovamente qui, abbiamo cominciato quindi già dalle nostre interviste con il nostro amico Gerard Adam, e questa sera abbiamo il piacere di poter intervistare Stefania Ricciardi, la quale è organizzatrice per il padiglione italiano della Fiera del Libro. Come sapete, quest'anno la Fiera del Libro ospita l'Italia, quindi l'Italia è il paese d'onore. E Stefania, quando hai saputo di questo incarico, la prima cosa che hai pensato? La prima cosa che ho pensato era quella di far conoscere quella parte della letteratura italiana che forse il pubblico tanto non conosce più. E ho cercato soprattutto di integrarla con la programmazione della Fab di Libro, il cui filo conduttore è sex, books and rock and roll, quindi con spirito un po' anticonvenzionale, di rottura del crescere. E quindi anche per me pensavo, ecco, che fosse importante far conoscere questa, soprattutto i giovani scrittori, cioè i cosiddetti giovani, quelli che sono nati negli anni 70, come Andrea Pagliani, da Muggia, Marco Cazzola, sicuramente affiancati da altri più noti come Stefano Bello, come Tarocchi, Michele Mari, che secondo me tra i migliori, cioè Antonio Pennacchi, ecco, quindi Diego Marani, però mi interessava anche creare questo rapporto di transizione tra due giovani, quindi scrittori che sono più noti a pubblico francofono ed altri invece, pur essendo pubblicati da grossi editori come Sei o Gallimard, sono loro. Assolutamente. Mi è sembrato di capire che insegni anche letteratura italiana all'Università di Parigi. Qual è la percezione degli studenti che si approcciano alla letteratura italiana? Sicuramente di grande interesse, tra l'altro tra il mio pubblico, diciamo, dei studenti, ma anche degli appassionati, cioè che non sono iscritti, sono degli uditori liberi, che io accetto molto volentieri perché sono appassionati di letteratura. Proprio per questo mi sono detto, inserito in programma anche una tavola rotonda con Mauro e Terreno in un botte di terreno, perché la domanda che mi viene posta più spesso è, bene, noi classici della letteratura italiana li conosciamo, ma come facciamo a stare dietro ai libri che escono? Come facciamo a conoscere questi scrittori? Ecco, allora attraverso questa tavola rotonda vorrei segnalare, avremo Marino Sinibaldi che è direttore di Rai Radio 3 e quindi potrà parlare di una produzione come Fahrenheit, potrà parlare di blog letterari come Nazione Indiana con Andrea Inglese che terrà qui anche in veste di poeta, e quindi da Luigi Simonetti potrà parlare di Le parole e le cose, potrà parlare di tutto, delle classiche che porterò le leggi, cioè mi interessava, ecco, portare questa dimensione di per far conoscere proprio la letteratura attuale, che è più difficile per tutti gli altri. Assolutamente. E consiglio magari ai nostri amici lettori, perché immagino che poi la scelta probabilmente non sia facile. Io per quanto riguarda la lettura, diciamo. La lettura, tra tutti autori che abbiamo. Questa è una domanda difficile, ti metto in difficoltà. Sì. Ma relativamente, perché guardi, io penso ci sia davvero per tutti. Abbiamo tre incontri, uno c'è stato oggi, tre incontri di bandi dalle mie, quindi tra i migliori fumettisti italiani tradotti anche in francese, pubblicati da tutti, c'è per esempio la Giondelli, c'è la Lanzani, ci sono i poeti, domani ci sarà un reading di poesia. Io ho citato prima Michele Mari, che sembra un autore molto molto importante, e poi i giovani scrittori di cui parlavo prima, cioè quelli nati negli anni 70, mi sembra una bellissima, una maturità di scrittura davvero. E l'ultima domanda è una curiosità, riflettivo a quello che dicevi prima, volevi creare questa colleghiana, questa transizione tra diciamo, la nuova generazione e quella che se ci fossero degli elementi con i quali caratterizzare la scrittura, di oggi come la descrivi? Ma forse una scrittura che si prende più alla realtà, più realistica, in tutte le sue forme. Per esempio anche lo scrittore, diciamo, nel mondo del lavoro, domani avremo un incontro con Michela Muggia, e il libro, questo libro per esempio, tutta la vita davanti, no, il mondo deve sapere, non è ancora tradotto in francese o Andrea Baiani, il testo non è pieno. Ecco, questa mi sembra anche questa tendenza di andare verso una realtà, un po' una caratteristica degli ultimi tempi. Ho letto in più articoli, allora il libro scomparirà? Sicuramente no. Sicuramente no, anzi, siamo più in vita, il libro è più che mai. E anzi, una cosa, posso permettere, vedo che qui le biblioteche funzionano tantissimo. Meglio in Italia che online, questa forse è la dimostrazione che e nello stesso tempo in Belgio ci sono tantissimi i libri si vendono più, quindi anche forse bisogna incentivare la lettura, bisogna appassionare tutti, si proseguirà mai. Grazie. Abbiamo anche il piacere, veramente siamo entusiasti, di poter intervistare questa sera Antonio Pennacchi, che ha appena concluso anche un intervento qui alla Fiera del Libro. Antonio, qual è stata l'accoglienza che ha ricevuto qui a Bruxelles? No, io mi aspettavo i tappeti rossi, la regina. No. Ma no, il problema più che per l'accoglienza a me interessava non sono importanti i sentimenti miei nel venirci. Perché sì, sono venuto per la Fiera del Libro, ma sono venuto come un pellegrinaggio ai posto in cui stavano i miei cugini. Ho lavorato in miniera, la Luvia, quindi l'ho vissuto e lo vivo come pellegrinaggio. E ha avuto già modo di visitare la Louvière, Martinel? Vorrei andare domani. Ti prepari perché sarà un viaggio commovente, glielo posso assicurare. L'energia è morta, si ricorda. Quindi insomma, è quanto dire. Veniamo a questo suo libro, Canale Mussolini, che immagino gli abbia dato tante soddisfazioni anche come premio Strega. So che la sua carriera di scrittore è cominciata un po' tardi e che insomma prima di affermarsi ha dovuto inviare i suoi libri tante volte prima che qualcuno finalmente la ricevesse. Cosa ha provato quando però le hanno comunicato che ha vinto questo maledetto premio Strega? Beh, ero contento, come si vuol dire, è sempre meglio vincere che perdere. No, ma... Beh, è stato bello perché fino al giorno prima mi davano perdente in corsa. Sono stato contento, però mi creda, la contentezza più grande sarà quella di averlo fatto, di averlo finito, perché era un debito verso la mia famiglia, verso i miei nonni, i miei parenti non ci sono più, quindi ero contento di averlo fatto. Poi certo, ero contento di aver vinto, perché ho partecipato allo Strega, ma pensavo che avrei perso, ma non mi sarei tagliato le vene se avessi perso. Poi l'ho vinto, anche pensando ai miei nemici. Certo. Cosa rappresenta quindi per lei Canale Mussolini? A livello affettivo, a livello artistico, insomma. Canale Mussolini è stato il libro della mia vita, io l'avevo già detto, insomma. È il libro che io sapevo di dover fare da 17 anni, quando ho imparato a leggere e scrivere, insomma. Io dovevo raccontare la storia della mia famiglia, del nostro potere e della terra. quindi il canale Mussolini è un dovere compiuto. Io ho altre cose da raccontare, le racconterò, ma insomma, il dovere più grosso era quello. Ho la sensazione che un altro canale Mussolini non sono in grado di farlo. Chissà, ma no, credo il limite alla creatività, magari. Credo di averci messo il meglio che avevo in magazzino. E il titolo, canale Mussolini, non è un po' provocatorio? E che cosa fa? Sarà provocatorio di tutto? È colpa mia se quel canale ha scavato, è stato scavato i denti di Mussolini e non chiamava Mussolini. Se l'avesse scavato Veltroni lo chiamavo canale. Bene, la risposta mi è piaciuta. Non è che la storia uno se la può riscrivere come gli parla lui. Assolutamente no, anzi. Però... Quello si chiama canale Mussolini. Ma chi c'è morto sopra? Chi l'ha scavato? Sudano, sono le migliaia di coloni. Le migliaia dei ragazzi durante la guerra, cioè sono morti quando quel canale sta la linea del fronte nello sbarco di Arci, sono morti ragazzi americani, inglesi, tedeschi, tanti italiani, fascisti, ma anche tanti coloni della Copontina. Si sentirebbe di lasciare un messaggio anche ai nostri italiani qui in Belgio che, come la sua famiglia, continua ancora ad emigrare e trova per fortuna, molto spesso qui, una fortuna? Ma io non credo ai messaggi. I messaggi sono loro che li danno a noi. Non sono io che do messaggi ai... Sono i miei zii che sono venuti qua, che hanno dato i messaggi a me. Questo è significativo. I messaggi sono loro. Poi vede, per emigrare ci vuole anche coraggio. Spesso emigrano i migliori. Poi è nella emigrazione che sta il motore dello sviluppo, perché tu impari, lo conosci, vedi, poi nel mercato lo racconti, lo fai, questo è l'amatore dell'uomo. Il messaggio che dovremmo imparare, soprattutto noi italiani, è quello di avere maggiore rispetto di chi emigra oggi all'Africa, in Italia, insomma. Se lei pensa che noi siamo più gli italiani in giro per il mondo di quelli rimasti in Italia, noi abbiamo il dovere di essere accoglienti, non le dico accoglienti come sono stati gli altri nei nostri riguardi, perché anche questo è prosopopea, fregnaccio, non è vero, non è vero. Mi ricordo quando andai in Germania nel 67, certi locali c'erano scritto di dare l'ingresso ai cani e agli italiani, quindi non ci abbiamo illusi, però ci dovrebbe insegnare a essere più rispetto di chi amica. Scommettiamo che dopo la sua visita a Marcinelli alla Lusiere scriverà un libro... No, le scommesse non si fanno. No? Magari ne riparliamo tra un po'. Cosa bolle in pentola allora? Poi, facciamo altre storie. Bene. Lavorando un libro di fantascienza. Sull'avvenire del libro. Ah sì, ecco, una domanda che ho fatto un po' a tutti ed è anche un po' una curiosità. Leggevo sulle sue ieri che il libro probabilmente comparirà. Qual è invece la sua opinione? Soffregnacci. Non lei pensa che non è scomparsa la lirica? Ci sono nuove forme d'arte che arrivano, ma ci restano quelli che sono appassionati a quella. Poi vedi, fino di quel libro che c'è, per raccontare le storie. Poi ci sono diversi modi di raccontare le storie. Una volta le storie si raccontavano a voce bassa, poi abbiamo cominciato a scrivere su libri, sui libri. Ma che film che è questa cosa, questo mestiere, raccontare le storie, raccontare le storie attiene alla natura umana. Quindi, io potrei dire che se poi una storia invece di andare sul libro di carta, va sulle book, va per radio, è sempre lo stesso, cioè, lei racconta la storia. Mi ha detto che proprio nel libro come carta resterà. Credo che il piacere di sfogliare anche l'odore. Guardi, io la prima cosa che faccio quando compro un libro è quello che odora la casa, odora l'inchiostro. Questo piacere nel buco non te lo dà, poi nel buco te ne darà altri. Quindi sono le nuove forme che si danno all'arte, ma l'arte è sempre la stessa. E le forme nuove non ammazzano le altre, ma si aggiungono. È un piacere in più. Poi ci sono libri, poi tra le stesse persone. Ci saranno libri che. Libri che si leggeranno, scriveranno su ebook, libri che si leggeranno su carta, perché è diverso il rapporto che hai. Come è diverso anche la mia scrittura, io scrivo col computer, no? I pochino, anzi, quando scrivo i versi devo scrivere con la penna. Antonio, ti ringraziamo della disponibilità. Poi ripeto, il mestiere è come raccontare le storie, bisogna raccontare le storie, come raccontiamo, va bene o va. Anche quello che fa le scritte sui muri raccontano. Antonio, ti ringraziamo e speriamo, chissà, di averti nuovamente nostro ospite tra qualche tempo. Ciao, grazie. Cari amiche e cari amici, eccoci qui, continuiamo il nostro viaggio, questo appassionante film del libro che, come avete potuto capire, è dedicato quest'anno all'Italia. Siamo contenti perché a pochi minuti anche da un incontro che abbiamo ricordato qui, avrà con i suoi lettori, riusciamo a scappare una veloce intervista. Gian Enrico, come hai trovato questo tempo? Perché già sono stati qui più volte, quindi ti siete trovati in diverso. Sono in grado di dire che cosa si è cambiato, diciamo, i circuiti percorsi sono più o meno sempre quelli. È una città interessante, la sensazione della città cosmopolita sia più che altrove, sia nel mezzo di un incrocio di destini internazionali. Tu hai scritto molto di Luciani, secondo te perché l'anno ha tanti qui in Italia, tanti autori, anche di noti che riescono a farsi conoscere proprio attraverso il questa questione del genere, per quello che mi riguarda, c'è un corso piccolo tuo iniziale, io credo che i miei libri rientrino parte benissimo nella categoria del giallo, senza tecnico, cioè delle cruzzole, che intendo su quel tipo di romanzi che c'è un delitto e c'è qualcuno che deve scoprire chi lo ha commesso. Ripeto, uno solo dei miei romanzi, sono professore italiano, lui conosce il francese, c'è una struttura di protetti storici. Negli altri io direi piuttosto di una dimensione umana, questa idea di un personaggio che esplora, diciamo, fisicamente e metaforicamente il territorio del mare, laddove appunto la realtà metropolitana è metafora della sua cultura. Credo che le ragioni che ha successo in generale del genere hanno il desiderio di rappresentare il bisogno di un'ottica mischiata dall'altra parte, una oscura, ma in realtà non ha il migliore su quelli che raccontano il genere della storia oscura, che riguarda tutti quanti noi, come ci sia un'altra parte, che è tutti quanti, anche nel mondo. Una curiosità, chi è un autore? Insomma, la serie di libro è sicuramente straordinaria, la manovraglia degli autori, però se ci fosse un autore o più autori a cui si è ispirato, si può fare qualcuno? L'influenza di un autore o un altro, c'è uno dei più classici, gli anni di sottoterra, ricordo, posso dire certamente che c'è l'autore di casa del ha influito una lavorazione in qualche modo un po' più l'idea, cioè di lavorare molto iniziale, ripulendola, continuando a ripulirla per eliminare tutto quello che è superfluo e quindi è soprattutto speso questo di là, così come c'è l'indagine per sentire un certo sistema animale, c'è un tema che non si trova. Se è stato tradotto anche in francese, che cosa ha trovato di diverso da questa lingua che non è italiana? È una sensazione strana, mi sembra, hai detto, perché hai una sensazione di eccezione, sai che il tuo romanzo, conosci la storia, conosci il modo in cui i personaggi parlano, ma al tempo stesso le parole sono diverse, e quindi è tua, ma non è tua, è di qualcun altro, è come guardare un oggetto da due direzioni diverse contemporaneamente, una buona traduzione è una buona lettura, quello che dico credo sia coerente con l'idea corretta. C'è un grande critico letterario italiano che ha scritto, diciamo, molto poco politicamente corretta, mi diceva che le traduzioni sono come le donne, quelle belle sono le seguite. Ebbene sì, tra l'altro c'è stato proprio un seminario, credo giovedì pomeriggio, proprio sulla traduzione, effettivamente il tema e la domanda anzi resta probabilmente ancora irrisolta. Qualche giorno fa su un giornale belga, proprio in occasione dell'apertura della Fiera del Libro, qualcuno provocatoriamente diceva che il libro morirà. Cosa ne pensi? Mi viene sempre da sorridere quando sento queste affermazioni categoriche e mi torna alla mente quello che disse il grande scrittore e autista inglese Turner poco prima di morire, quando siamo alla metà del XIX secolo, cominciarono ad apparire le prime fotografie. Lui disse che era felice di essere vecchio perché non avrebbe dovuto assistere alla morte della pittura per effetto della fotografia. Siamo nel 2012, fortunatamente la pittura non è morta. Credo che la validità di questo tipo di previsioni sia più o meno lo stesso piano della generazione italiana. Che dimostra che può essere un bravo scrittore, un bravo poeta, un bravo musicista, un bravo pittore, ma non essere bravo francese. Assolutamente. Un messaggio per i nostri amici, per quelli che ascolteranno l'intervista, ai lettori e ai non lettori. I libri contengono dei mondi, la capacità di vivere bene, magari anche scappando qualche momento di felicità nella cosiddetta vita reale, dipende anche molto dalla capacità di leggere tante altre vite inventate, ma non altre. La cosa straordinaria della letteratura che funziona, e che è funzione, ma deve essere tutto perché è molto d'accordo. Stai già lavorando a qualcos'altro? Sì, sarà scritto un nuovo breve romanzo, mi diamo molto presto per l'altro. E noi ti auguriamo ovviamente tutto il meglio. E siamo alla fine con questa nostra intervista, ringraziamo Federico Carofiglio che è stato qui con noi, magari potremmo riascoltarti anche in radio? Cari amiche e cari amici, continua il nostro viaggio alla Fiera del Libro che vede quest'anno l'Italia protagonista e siamo con Gianni Riotta, il quale ha partecipato ad un piacevolissimo intervento che ha parlato anche dell'Italia. Gianni, qui da Bruxelles, guardando l'Italia, che cosa ti viene da pensare in questo momento? L'Italia è un paese che ha un sacco di guai, però sicuramente anche l'Europa è un continente che ha un sacco di guai e penso che insieme, con i grandi europei, ce la possiamo cavare. Quindi ancora un messaggio di ottimismo? Qual è l'alternativa? Questo ve lo chiedo anch'io. Il ruolo dell'informazione, lo dicevi prima durante il tuo intervento, diciamo a volte è opinabile. In questo caso anche c'è un messaggio di speranza, qualcosa può cambiare oggi in Italia? Ma io detesto gli italiani che vanno in giro per il mondo a dire che nel nostro paese tutto va male, moltissime cose in Italia vanno male sicuramente, ma anche in altri paesi la situazione è molto complessa, ripeto quello che ho detto nel dibattito, la situazione economica tedesca oggi mi sembra straordinaria, se la guardate in 20 anni o 30 anni è molto meno florida, e oggi la Cina è considerata un paese in un boom straordinario. Ti assicuro che se guardi alla Cina fra 25 anni, quando avranno una popolazione di anziani e che sarà molto difficile essere sostenuta da chi lavorerà, la Cina sarà diversa. Quindi non bisogna mai guardare i paesi per come sono nel momento in cui li fotografi, ma sempre dove saranno tra 20-25 anni. Dove sarà secondo te l'Italia allora tra 20-25 anni? Ma sarà dove la metteremo e sarà a seconda delle scelte che compirà proprio nei prossimi 2-3 anni. Se l'Italia continua in questa politica che è di rigore per quanto riguarda i conti, però anche di crescita e di innovazione, sarà sicuramente uno dei paesi leader dell'Europa. Se invece non continuerà su queste politiche di rigore e di crescita, si perderà. Le tecnologie e internet hanno profondamente influenzato il modo di fare comunicazione. Qui alla Fiera del Libro, prima che si cominciasse, si diceva che il libro probabilmente tra qualche tempo scomparirà, sostituito dall'ebook. Tu invece cosa ne pensi? Guarda, io ho appena pubblicato un libro che si chiama Le cose che ho imparato, che è uscito in Italia da Mondadori e spero adesso presto anche sarà disponibile in francese. E il problema non è l'ebook o il libro di carta, faccio un lavoro digitale per Mondadori Editore, e il problema è la trasmissione della cultura. E oggi ci guardiamo internet, l'ebook, il tablet, l'iPad, ma i mezzi di comunicazione della cultura, da Omero a oggi, sono anche 100 volte: tavolette di cera, papiri, scolpito nella roccia, telegrafo, la carta, internet, e in atti registrati, e continuiamo a cambiare. Il problema è che dobbiamo continuare a stare nei nostri valori, a lavorare nei nostri valori, anche con i nuovi supporti tecnici, come io dico, i media all values. E cosa diresti invece ad un giovane studente che si affaccia al giornalismo? Spero che i tuoi genitori siano molto ricchi. Sembra essere uno slogan. E invece un messaggio per i nostri amici ascoltatori? Mio figlio è uno di voi, perché è un italiano, un giovane italiano che vive in Belgio e lavora in Belgio, quindi in bocca al lupo a lui e in bocca al lupo a tutti voi. Gianni, ti ringraziamo, ovviamente in bocca al lupo per le tue cose future. Stefano, benvenuto a Bruxelles. Partirei con una domanda sui tuoi libri tradotti in francese. Che cosa ha provato quando ha letto il suo primo libro tradotto proprio dall'italiano al francese? Il mio primo libro fu tradotto in tedesco, non in francese, però quasi uno stupore, perché già era una cosa strana vedere il mio libro per la prima volta pubblicato, poi pensare che andava addirittura in un altro paese. Devo dire che la prima traduzione non era straordinaria, quindi un pochino mi ha dispiaciuto, però dopo quelle cose sono state. Negli anni lei ha scritto tantissimo, sicuramente uno degli autori, oserei dire, veramente più proficui che abbiamo nel panorama letterario italiano. E Barthorst però, che cosa rappresenta per lei? Ma io non ne posso più di Barthorst, basta, anche perché recentemente ho fatto un film che purtroppo non mi è piaciuto per niente. Sono gli inizi, ecco, non sono successe tante cose. Non credo assolutamente che sia il mio libro migliore, però essendo uno dei primi, ovviamente mi fa bene. Tra le ultime invece due produzioni letterarie, c'è un personaggio che magari vorrebbe sviluppare meglio, oppure non ritorna mai indietro rispetto a quello che ha scritto? No, un libro è fatto, no, non mi va di fare libri seriali, un personaggio, un commissario, le cose, lo fanno bene altri. Io... No, mi hanno chiesto tante volte, ad esempio, di fare il seguito di Margherita Dolce Vita, ma no, credo che non lo farò, poi magari. La tela del libro sarà aperta con una sorta di, diciamo, di interrogativo insieme di minaccia, che probabilmente il libro da qualche anno scomparirà sepolto da tante altre varie forme. Lei invece cosa pensa? Ma anzitutto che fa prima scomparire la terra, prima del libro, se scompare scompare tutto. Però l'ha detto tante volte. Sicuramente può essere che le nuove tecnologie impediscono al libro di fiorire, ecco, può darsi che il libro dovrà convivere con un altro tipo di scrittura, però sono sempre libri. In realtà se uno legge sul supporto tecnologico, sulla carta, l'importante è che legga, quindi potrà andare un po' in crisi qualche editore, ma la scrittura esisterà. C'è un messaggio in particolare che vuole lasciare ai nostri amici italiani che vivono qui in Belgio e che continuano a leggere anche in italiano? Ma di tornare in Italia e di non fidarsi troppo soltanto di quello che dell'Italia dicono i giornali e le televisioni, di venire a vedere cosa succede nel nostro paese, che è un paese che è molto molto complicato, non così semplice come vogliono farci credere. Molto complicato e forse in questo momento anche un po' sofferente. Invece, pensando agli scrittori, secondo lei oggi qual è il ruolo dello scrittore nella società attuale? Il ruolo che ha qualsiasi persona che esprime le sue idee, di raccontare un pochettino cosa gli piace e cosa non gli piace, e di vedere qual è la reazione della gente, di entrare in collegamento con la gente, di rompere una certa solitudine che nessuna tecnologia, nessuna modernità in grado di farlo. Abbiamo comunque sempre bisogno di ascoltare gli altri e di parlare di altri. E a coloro i quali iniziano oggi la loro avventura o comunque cercano di iniziare oggi a scrivere, invece cosa dire? Per quello che ho scritto con la signora, una volta gli scolari mi chiedono una frase sulla lettura, da mettere sulla maglietta, e io dissi più o meno che leggere è come imparare ad andare in bicicletta. Una volta che hai imparato bene, poi vai più forte degli altri. Sta lavorando già a qualcosa d'altro? Possiamo svelare qualcosa oppure no? Sì, sì, uscirà un libro a novembre. Dire, non dico niente per caramanzia, ma uscirà in mente. La ringraziamo. Grazie. Allora, continua la nostra avventura qui alla Fiera del Libro, siamo sempre su Bruxellando Radio Alma e abbiamo il piacere di parlare con Marcello Sole. Marcello, questa avventura qui a Bruxelles, alla Fiera del Libro, come è l'Italia ospite d'onore? Dici qualche emozione, visto che siamo ancora qui. Beh, molto bello e poi, come dire, è un onore essere ospiti d'onore. Io sono stato educato all'educazione e quindi mi sembra bello essere gentili con chi ti tratta bene. È stata una grande esperienza sotto tutti i punti di vista. Secondo te qual è il ruolo dello scrittore oggi, della scrittura? Qui hai visto c'è tanta gente, quindi effettivamente c'è ancora fame di scrittura. Quindi quale vedi il ruolo dello scrittore in questa società così, insomma, veloce e altalenante? È appunto quello di rallentare. Lo scrittore è quello che rallenta e che ricorda e che di tanto in tanto rompe qualche illusione, però questo devono fare gli intellettuali nelle società, perché in questo modo magari qualcuno frena e dice ma può darsi che quella cosa vada pensata in maniera diversa. Ecco, noi non ragioniamo mai sui grandi numeri, esattamente il contrario di quello che sembra la situazione. No? Gli scrittori funzionano bene quando dei 100-150 spettatori dei loro incontri almeno due hanno cambiato il loro punto di vista, questa è la media. Due per volta, di tanto in tanto, lentamente, è per questo che la lettura esiste e continua a esistere anche dopo di noi. Quindi sono fiducioso. A proposito di quello che dicevi, c'è stata qualche giorno fa, proprio in apertura della fiera, una provocazione, probabilmente il libro morirà. Tu invece cosa ne pensi? Ma che è darwinismo, se deve morire morirà, se non serve morirà. Però io ricordo che si diceva la stessa cosa della bicicletta. La bicicletta è tutt'altro che morta, non è che l'automobile ha soppiantato la bicicletta. Questa idea che abbiamo noi sempre ad esclusione è un'idea molto ignorante. In genere chi fa queste teorie non ha letto abbastanza. Auguriamocela davvero. Stai già lavorando a qualcosa di nuovo o hai presentato qualcosa in particolare qui alla fiera? Qui ho presentato l'uscita dell'ultimo volume per Steiger, che è la linea di Forgeroni, che è Sirpe in italiano. E invece in Italia proprio la settimana prossima sarà un nuovo romanzo, si chiama Nel tempo di me, per Einaudi, con il mio editore. Che cosa vorresti dire ad un giovanissimo scrittore che inizia a inviare in giro il suo manoscritto? Che l'unica condizione per cui io leggo il suo manoscritto e che lui abbia letto più libri di quelli che ha scritto. Mi sembra davvero interessante. Invece un messaggio ai nostri amici lettori e a tutti i nostri amici ascoltatori che ascolteranno questo anno. Il messaggio è che la letteratura, la cultura, la lettura salva la vita, sul serio, nel senso più esteso del termine. Cambiare punto di vista, avere un senso critico e non accontentarsi di verità già precostituite è il compito della lettura e della buona letteratura. Quindi che non si arrendano. Marcello, ti ringraziamo e soprattutto in bocca al lupo per questo nuovo romanzo. Grazie. Continua la nostra avventura qui alla Fiera del Libro, sono particolarmente contenta perché riesco finalmente ad intervistare anche un napoletano, quindi campano come me, quindi questa cosa mi rende ancora più felice. Francesco, come ti è sembrata l'accoglienza alla Fiera del Libro? L'accoglienza molto buona, io sono molto contento di essere stata invitata la prima volta come scrittore. La forma sembra molto bella, ben organizzata, con molti incontri, ricca. L'Italia è ospite d'onore, io sono molto contento, ho conosciuto anche le autori che non conoscevo, persone simpatiche, intelligenti, sono sempre di meno, e quindi è un po' come entrare insomma, in un acquario e salvare alcune specie. Venendo dalla Sud Italia, come ti sembra, insomma, a 2000 km di distanza, come percepisci l'Italia, la letteratura, insomma, venendo qui su questo stand organizzato dalla Piola Libri, qual è la prima sensazione che ti viene in mente? Ma, sai, io come dire, ho una visione della letteratura e della scrittura come una cosa molto impegnativa. Sono a favore ovviamente della diffusione della letteratura, ma mi rendo conto che questo non può avere un consenso unanime. Quello che si tenta di fare, giustamente per certi aspetti, è una commercializzazione. È un aspetto mercantilistico e va bene così, ma questo è diverso poi dalla scrittura moderna. Come diceva giustamente Marcello, poi chi sono gli scrittori che vedono in più? In parte, tranne qualcuno, in parte sono scrittori che un easy reading, diciamo, no? Molto facili, come dire, come acqua che ti scorre addosso. Poi ci sono quelli lì che riescono a far cambiare opinione, perché lasciano un segno, una traccia, una cicatrice. Ecco, io mi piace molto di più questa seconda parte. Detto questo, preferisco che si vendano più libri piuttosto che si vendano più cioccolatini. Qual è quindi secondo te il ruolo della scrittura e dello scrittore oggi? Il ruolo della scrittura, appunto, al di là dell'aspetto meccanico, deve essere quello di ispessire l'elemento critico, tentare di dare un'opinione diversa, arricchire i punti di vista. Secondo me, io almeno ho questa visione, come dire, didattica, no? Se vuoi il mondo che scientificamente cammina a strappi, c'è qualcuno che non ha niente a che vedere, tagliato un gioco sempre, no? Che tira fuori una teoria che gli scienziati che stanno studiando da anni su quello stesso argomento non riuscivano a vedere. Sempre qualcuno di esterno che ha un'ottica diversa, un pittore che fa una cosa molto particolare, uno scrittore che scrive delle cose che non vengono comprese, compiute in quel momento, è così che va avanti la crescita, diciamo. Secondo me lo scrittore deve fare in modo da accrescere la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista. Secondo te il libro, dicevamo anche con Marcello prima, che è una polemica insomma che ha un po' aperto questa fiera, poi magari può essere anche bene il libro, secondo te scomparirà o sarà sostituito da altre forme? Sai, il libro che cos'è? Il libro è una forma di espressione dell'uomo. Il libro come pittura, come tante altre cose. Se dovessi morire il libro, io non sono di questo avviso, se dovessi morire il libro sicuramente significa che o non c'è più lo stesso uomo che c'era prima, oppure che quell'uomo ha trovato delle forme di espressione che sono diverse rispetto al libro. Non so se mi spiego. Sì, no. Il libro in quanto tale è un effetto, non è una causa. E quindi viene visto come tale, nel momento in cui non c'è più l'uomo, oppure l'uomo non ha più bisogno di esprimersi, e quindi significa già androide, oppure al contrario, ha bisogno di esprimersi, non lo fa più attraverso il libro, ma attraverso gli altri. E che cosa hai presentato qui alla fiera del libro? So che facevi parte di un panel, sei quello che stiamo discutendo. No, prego. Io sono qui, io ho pubblicato due libri in Francia, e ho pubblicato l'ultimo qualche mese fa, e quindi mi hanno chiamato per quello che si chiama Offense, che è pubblicato da Metelier in Francia, e da Metelier in Italia, con il suo studente. Il precedente avevo, che è famoso, e invece il precedente avevo pubblicato le mostre sempre con Metelier, che invece è uscito in Italia, sempre con Mondadori, con tutti gli scontri comuni, e si riguarda. Credo sia stato uno dei primi romanzi. Questo è... Sì, assolutamente. A proposito di questo, se ne parlava proprio in un convegno ieri sera, sempre qui alla fiera del libro, del fatto che l'Italia abbia dimenticato un po' il suo ruolo, diciamo, di emigrante, già che non accoglie così come noi italiani siamo stati accolti all'estero. Tu invece di cosa ne pensi? No, io sono perfettamente d'accordo, non solo. Penso che ci sia stato, che c'è in Italia un processo di rimozione spaventoso. L'Italia è un paese dal quale siamo partiti dal 1870 al 1970-75, 27 milioni di persone. Alla fine ci 54 milioni di euro. Grazie, sono andato. Non si sentono. Prendere nelle mani della tratta della prostituzione, della camorra, della mafia in Australia, in Argentina, eccetera. Credo ci sia una cosa, una per 5 volte, una famiglia su 4, una famiglia su 5 italiana che ha qualcuno che vive all'estero perché è in Italia. Bene, c'è la nostra accoglienza rispetto a coloro che adesso stanno facendo quel tragitto che abbiamo fatto verso l'Italia, è quella che stiamo attuando, è che è un paese che non solo non ha imparato niente, forse deve ancora imparare tantissimo. Detto questo, io capisco che la prima reazione all'immigrazione è quella di sentirsi in Italia. Anche questo è un luogo che non è che fa spatato. In Italia ci sono non più di immigrati o di extracomunitari. Brutalmente, ci sono di migranti di quanti non ce ne siano. Come dire, noi tra l'altro ci vantiamo di avere delle radici cristiane, perché abbiamo il Vaticano lì, a Roma, e se dovremmo poter, non dico a togliere, dovremmo elaborare una politica decisamente diversa rispetto a quella che affondiamo le cavette del mare e tutte le cose. Un pensiero invece alla mafia. Ieri ugualmente si parlava, c'era anche Gianni Riotta, il quale ha sottolineato proprio la diversità di approccio del precedente governo con il governo tecnico che ora è, diciamo, è in funzione. Però io che non cosa ne penso rispetto proprio a questo tema? Guarda, siamo vaghi, in maniera tale non entrare troppo nel dettaglio perché mi rendo conto che insomma apriremo un vaso di Pandora dal quale non ce ne usciamo più. Guarda, sinteticamente, io credo che le quattro grandi organizzazioni criminali italiane che tengono in mano militari quattro regioni italiane, ma non più soltanto, io credo che queste cose siano organiche a un certo progetto che fa parte di tutta l'Italia. Detto questo, la criminalità ha cominciato così comunque, in tutti i paesi del mondo c'è traffico di droga, c'è traffico di distribuzione, e questo non lo gestiscono ovviamente i ministeri delle forze di ordine, ma il problema in Italia è che il tasso di vivibilità in quelle regioni dove la criminalità organizzata è così forte non è più sospetto. Allora, negli altri paesi la criminalità è relegata in un ambito, fa alcune attività in parte tollerate, in parte fisiologiche. In Italia invece è l'esatto contrario, lo Stato che è c'è un messaggio ai nostri amici spettatori che vuoi lasciare per questo programma? Beh, io voglio dire che Bruxelles e Belgio e Milano in Asia non si distinguono per qualche cosa in particolare. No, se tu guardi le guide turistiche, lì dove c'è Belgio c'è un po' un bianco, poche righe che si capiscono la cosa. Invece torno a Bruxelles qui credo per la terza volta. Scopro ancora una città che ha molte molte cose da dire, un po' se altro, per la differenza che c'è tra Pandora, mi ricordo molto bene, anche il fatto che a lungo tempo, credo sia 8 mesi che ha mandato il governo, di più, questo fa molto caso. 18 mesi. 18 mesi, poi che il fatto che il premier si chiami Di Rupo, Di Rupo che fortunatamente è staccato, e mi sento veramente come a Napoli. Scriverà mai napoletano? Scritto napoletano estremo, abbastanza, è scritto in napoletano italiano. E poi c'è un piccolo libro che invece è stato pubblicato in Francia che si chiama Monnette, che invece è divertente, ho scritto una cosa divertente, che appunto parla del fenomeno delle montagne di Monnette. Occorreva farlo in napoletano, così come quando pubblicavo il libro sull'immigrato, ovviamente quello parlavo di napoletano. Il lavoro sulla lingua è fondamentale. Quando tu vedi un film, hai all'opera 5 sensi, 3, 4 sensi che lavorano per contestualizzare il luogo dove si sta svolgendo l'attività nell'azione. Con la scrittura tutto questo è un minimo, perché hai un solo caso che è quello della verità. Allora, se tu vuoi rendere, contestualizzare, dare l'idea di quello che sta accadendo, hai una sola possibilità, è quella della lingua. Attraverso la lingua tu è come se sentissi, quindi perciò secondo me il lavoro sulla lingua fatto deve essere anche fatto molto bene. Francesco, vi ringraziamo, speriamo che non stiamo per il Bruxellando. Con molto piacere, lo saluto. Tre per lui. Il viaggio qui alla Fiera del Libro di Bruxellando prosegue e siamo felici di avere anche come nostro ospite Diego Maragni. Diego, so che sei da tanti anni qui a Bruxelles. Quando racconti le tue storie in italiano, scrivendole qui in Belgio, pensi che ci sia una differenza nelle percezioni? Penso che questa abbia un'influenza sulla tua scrittura oppure no? Sì, senz'altro mi influenza il fatto di non vivere in Italia, di essere lontano dall'Italia. Vedo l'Italia, anche la lingua, con un certo distacco, vedo la realtà con un altro, da un altro punto di vista. E sono sicuramente influenzato dal fatto di vivere in questo paese. Del resto, recentemente sto proprio scrivendo dei racconti di ambientazione bruxellese. Mi sono voluti 25 anni per maturare argomenti in modo abbastanza approfondito da scriverne su Bruxelles e sul Belgio. Però ecco, ci sono molto affezionato a quello che sto scrivendo e mi accorgo che c'è un'anima mia italiana-belga, cioè italiana profondamente, ma influenzata dal mio essere qui. Uno dei temi preferiti di Bruxellando è la multiculturalità. Noi siamo una radio, diciamo, che riesce a esprimersi in più lingue, in portoghese, in greco, in italiano, ovviamente in francese. Quanto questo elemento di multiculturalità è presente anche nella tua scrittura? Moltissimo, per me, io lo dico sempre, non sono più italiano, sono qualcosa di più, sono un italiano dilatato, sono un italiano contaminato da tutta la diversità che ho l'opportunità di frequentare qui a Bruxelles, perché c'è questo da dire, vivere a Bruxelles non è solo vivere nella capitale del Belgio, è vivere a contatto con una varietà linguistica e culturale impressionante. Del resto non è un caso se quando torno in Italia, nel mio paesino a cui sono altrettanto affezionato, i miei amici mi chiamano lo svizzero, nel senso che mi percepiscono come un italiano alieno, un italiano eccentrico, un italiano che sì, uno che parla italiano ma non è tutto italiano. In fondo è vero, ecco, non sono più solo italiano e di questo sono profondamente fiero. Secondo te, quindi, in questa diversità, in questa multiculturalità, in questo mondo estremamente veloce, qual è il ruolo della scrittura oggi? La scrittura per me resta un pilastro della nostra cultura, del sapere e del vivere. La scrittura è a leggere, impara a astrarre, a fare astrazione, a staccarsi dalla realtà. Oggi tutto è immagine, l'immagine è molto comunicativa, è molto più efficace della scrittura, ma nulla addestra all'astrazione, all'invenzione, al pensare quanto la scrittura. Che cosa ti senti di scrivere quindi ad uno scrittore emergente? Di scrivere e leggere, tantissimo. C'è stata una polemica, o comunque qualcuno ha tentato di dirti che probabilmente il libro morirà. Tu invece che cosa ne pensi? No, il libro non morirà, cambierà il suo formato, oggi diventa elettronico, poi chissà quante altre maniere ci saranno. Però il libro, come momento in cui l'uomo resta solo con la parola scritta, con il tema, ci sarà sempre. Stai lavorando a qualcosa in particolare? Ho appena finito un libro che uscirà il 6 giugno in Italia, il titolo è Il cane di Dio. E già svelarsi qualcosa? In anteprima, dai. È un agente segreto vaticano nelle sue imprese. Ah, allora possiamo strapparti una promessa del primo ospite a Bruxellando? Senz'altro, promesso. Un messaggio invece per coloro i quali ascolteranno questa tua intervista e non sono i tuoi ascoltatori? Continuate ad ascoltare Radio Alma, a cui io in passato collaborai. Ah, bene, allora siamo doppiamente felici. Diego, ti ringraziamo e ti auguriamo veramente un grossissimo bocca al lupo. Grazie a voi, crepi il lupo. A presto. Il nostro viaggio di Bruxellando prosegue con Simonetta e con Vittorio. Simonetta, tu hai una bellissima storia europea, siciliana da tanti anni che cosa rappresenta per te la multiculturalità? Che è uno dei temi che a Bruxellando sta più a cuore. Ma io faccio parte di una commissione sul multilinguismo che abbiamo fatto un rapporto, il commissario Orban. Io penso che il multilinguismo e la multiculturalità sono fondamentali, sempre badando che siamo tutti uniti e insieme, per darvi un esempio. Riasco a che ha ispirato questo mio ultimo libro, La cucina del buon vino. Ho vissuto in America per 3 anni e Franco Fellini Giacobini, nel 1894, eccetera. Lui scrive, quando io ero in America mi vestivo come un americano, mangiavo come un americano, ridevo alle loro storie e lavoravo con loro e non lo facevo per essere afrodiscendente, ma per ringraziarli di avermi ospitato. E per me questo è la multiculturalità. Io, come scrivo nel mio libro, ho imparato a fare i sandwich piccanti con il tempo. Non volevo all'inizio, non mi piaceva, però ho detto io vivo in Inghilterra, invece mi hanno accettato, io devo dare a loro il che loro conosco, ma che non è nostro. E io provo che la multiculturalità non significa che uno deve continuare a fare come faceva prima. Dobbiamo adeguarci e soprattutto essere grati a chi ci ospita. Che cosa pensa invece di quello che è troppo accade ancora in Italia, il fenomeno dell'immigrazione in cui non c'è apertura? Allora, nel contesto degli italiani, in cui la popolazione cresce al di sotto dello zero, per cui dovremmo estinguerci se continuiamo così, avere dei giovani emigranti ventenni che sono stati educati e allenati altrove è una ricchezza enorme, appena arrivano a guadagnare. Sta a noi inserirsi, sta a noi dare loro la possibilità di lavorare e contribuire al nostro paese se vogliono diventare italiani. Io trovo assurdo che da noi non si permetta al bambino nato in Italia di essere italiano come era un tempo. Ora la nazionalità è limitata alla paternità e bisogna considerare che noi che siamo stati emigranti in America, in Inghilterra, dovunque, come una ricchezza. Avendo detto questo, l'emigrante deve adeguarsi a noi, deve cercare di inserirsi nella nostra società e noi dovremmo dargli la possibilità di imparare la lingua, per esempio, e di adeguarsi. Il vero problema è quando c'è un'immigrazione in massa, non siamo pronti e spesso l'emigrante non vuole venire da noi, vuole andare altrove. A proposito quindi anche di questo, qual è il ruolo secondo lei della scrittura? Mi piacerebbe dire che è un ruolo importantissimo, la gente non legge in genere. La scrittura, dipende, la scrittura se parla degli elementi sociali deve cercare di ispirare le persone, però dobbiamo essere franchi, la gente legge poco in Italia, sono apparso su un programma che sono ora veramente gratissima. La settimana scorsa alle presentazioni che ho fatto del libro tutti mi parlano di quel programma. Dunque quel programma e la signora Vignati sua intervistata le sono grata eternamente perché ha fatto vendere più di quanto non abbiano fatto le recensioni o il passaparola eccetera. E dobbiamo usare i nuovi mezzi, dobbiamo usare la televisione per tutti i nuovi. Io credo che la scrittura abbia un valore anche limitato. A proposito di questo, una persona di fiera che leggeva proprio su un giornale che un libro morirà, che sta morendo e che sarà sostituito da altri film. Lei cosa ne pensa? Veramente orgogliosa. Guardiamo il mondo. Prima si scolpiva sulla pietra, poi si scriveva questo disegno con la cera sopra, poi si cominciò ad avere delle pelli su cui si scriveva, poi arrivò la carta. Non è importante, certo per noi bisogna il libro dispiace. Però, francamente, l'importante è che ci sia la scrittura e che possa essere eterna. Quello che a me fa paura, fa grande paura di verità, è invece un sistema in cui ci sono dei sistemi di tecnologie che poi muoiono. Questo sarebbe drammatico. Lo posso immaginare. Un messaggio per i giovani scrittori che si affacciano a questo mondo dell'editoria e della scrittura in generale? Non lo so cosa si può dire. Questo mondo e tanti scrittori. Se voleva un consiglio, mi sono incontrata. Lui voleva un consiglio. Allora, un consiglio per gli scrittori emergenti, per coloro che vorrebbero farsi pubblicare. Allora, un consiglio per chi vuole scrivere. Prima di tutto chi vuole scrivere deve scrivere. Giorno di notte deve farlo. Essere pubblicati è ovviamente quello che uno sogna, ma la fortuna del mondo di oggi è che ognuno si può autopubblicare su internet. Per cui se non trovate un editore, ma pubblicatevi su internet e probabilmente avrete la stessa fortuna. Mi sembra essere veramente un ottimo messaggio di speranza. Sta già lavorando a qualcosa? Io lavoro sempre a qualcosa. Ora lo so, proprio ho quasi finito il filatorio numero 2, che è il credito del primo e poi da 2 anni penso e pianifico un romanzo che farò con la Feltrinelli, che dovrò consegnare a novembre, che sarà un romanzo ispirato a mia nonna, perché c'è questo. E per dopo, senza dire. Vedremo. Simonetta, noi ti ringraziamo, speriamo di averti magari anche ospite bristellando. Sarebbe un gran piacere e un onore, grazie. A prestissimo. Allora, prosegue il viaggio, anzi, si ferma qui il viaggio di bristellando alla fiera del libro. Oggi è mattina, lunedì, e stiamo concludendo quella che sarà una 5 giorni abbastanza intensa. Abbiamo deciso di concluderla con Milano, il quale è stato anche l'organizzatore del padiglione italiano durante la manifestazione. Jacopo, a fine manifestazione, qual è un tuo commento e un bilancio? Ma sicuramente il bilancio è positivo, comunque abbiamo visto che il pubblico che è venuto nel nostro stand era diverso, variegato, è stato portato via normalmente, quindi per via nel nostro locale. Credo che finisce comunque qua la fiera e da dove è iniziato, perché stiamo parlando dei promotori, italiani, con piccoli ritardi e piccole incomprensioni, però alla fine è stato un rapporto successo sia per l'autore che sono venuti, sia per il numero di persone che sono andate. Quando ho proposto di far parte dell'organizzazione, che cosa hai trovato? Ma sicuramente ho detto, ero molto fiero che avessero chiamato, e poi era abbastanza logico, no? Siamo l'unica libreria italiana in Belgio, non perché c'è la fiera del libro, è inevitabile che siamo coinvolti. E sicuramente per la prima volta noi siamo stati abbastanza indipendenti a lavorare con diverse entità. Abbiamo imparato a lavorare in maniera diversa, perché noi non siamo abituati a fare le cose comunque indipendentemente, seguendo i nostri il nostro pubblico, questa volta che siamo riusciti comunque a lavorare con altri soggetti in maniera positiva. E invece per quanto riguarda la partecipazione di case editrici, se è così fatto nel risultato di una, fare qualcosa in più oppure qualcosa in più? Ma sicuramente mi aspettavo qualcosa in più, l'obiettivo è che fosse un risultato supporti, però lentamente. lentamente diventerà un supporto solo per appassionati, per amanti di felicità. Possiamo dire, però sì, l'ultimo giorno ci sentiremo in qualcosa. Sei ottimista, insomma, sì, certo. Come adesso c'è la scoperta del film, della musica, però è solo... però che, non lo so, io personalmente, non perché ho una libreria, non leggo ancora su film, non so, però... Ma nemmeno io, quindi... Siamo almeno in due, siamo su almeno un invece un messaggio per l'appunto ai nostri amici, a tutti coloro i quali ci ascoltano, tutti quelli che ascoltano come parlando. Continuate a leggere la stampata e apprezzare il libro soprattutto nel, come dicevo prima, nei sensi che abbiamo, non solo nel senso visivo, ma nel senso tattile, nel senso. Comunque abbiamo un rapporto diverso che può essere comunque il libro che deve essere tutto solo diverso al nostro letto, al nostro telefonino, quello che è importante. Siamo, noi ti ringraziamo, premi meritato di solito, insomma, veramente meritato, e alla prossima.